cioè in concomitanza con una situazione pubblica, politica, estremamente pesante per gli artisti. Luigi Filippo era al potere, era un re che era venuto su, un Orleano che era venuto su con l'appoggio della borghesia, e per compensare la borghesia dell'aiuto che gli aveva dato, aveva concesso tutti i posti di potere alla borghesia. Il fatto è per noi estremamente significativo, perché la borghesia, che mirava semplicemente a far danaro, non aveva altri interessi, e soprattutto non aveva interessi di tipo spirituale, intellettuale, artistico, per cui l'artista veniva a trovarsi progressivamente emarginato, soffriva di questa condizione che naturalmente non gli assicurava proventi economici, come potete capire, e d'altra parte rimaneva orgogliosamente chiuso in questa situazione, e si veniva a creare una sorta di separazione tra la figura dell'artista e la figura complessivamente dell'establishment sociale a cui l'artista faceva riferimento. Per darvi un'idea di questa situazione, insomma, se la affrontate con la situazione attuale, in Italia, vedete una condizione completamente diversa. In Italia non ci sono, usiamo questa espressione che si sarebbe usata allora, non ci sono praticamente artisti nel campo della letteratura, ci sono dei scrittori che hanno un modo di intendere la scrittura, il rapporto con il pubblico essenzialmente commerciale, ed ecco perché la televisione ci sforna continuamente degli scrittori con il loro ultimo libro, no? Anche se l'ultimo libro sia di Totti, poniamo, ecco. Ma l'ultimo libro di Totti è un paradosso che dà in qualche modo la misura di quello che è la media dei libri dei romanzieri italiani. Non c'è più alcun bisogno di commissione, c'è semplicemente la furbizia nell'entrare in certe case editrici, in certi giri di potere, nel pubblicare, ma anche in questo caso occorre dire che i libri hanno schiacciati, soprattutto da internet, i libri hanno pochissima vita. No? Un libro poteva rimanere una volta, un anno e mezzo, sullo scaffale di una libreria, questo intendo dire anche semplicemente 2 anni, 3 anni fa, cercate di chiudere il solito, avete tutti chiusi i telefonini, e adesso invece un libro arriva sullo scaffale di una libreria e viene immediatamente mandato fuori. È una condizione in cui non c'è più l'artista, non ci sono più i salotti degli artisti, ecco, questo è un altro, cioè i salotti in cui si riunivano gli artisti, condizione completamente diversa da quella in cui l'artista era peraltro esistente, notevole, al punto tale che dopo 200 anni ce ne ricordiamo, ma separato dalla società. E fu in questa condizione che Flaubert cominciò a scrivere. Ma non si trovò naturalmente soltanto di fronte a problemi di scrittura, si trovò anche di fronte ai problemi che un uomo è costretto ad affrontare, se posso usare il bisticcio, e i problemi sono questi, sono il problema del rapporto con le donne anzitutto. E allora vogliamo un momento vedere questo tema importantissimo, che è le donne di Flaubert. Le donne di Flaubert. Flaubert non era esattamente un Don Giovanni, non lo era congenitamente, costituzionalmente, gli avrebbe fatto un po' orrore l'idea di essere un Don Giovanni. Gli sarebbe sembrata, alla lettera, una grossa perdita di tempo. Questo omone era un omone, Flaubert, alto oltre 1,80, quando la media dell'altezza media degli uomini era sugli 1,60, pesava più di 100 kg, questo comune in tutti i sensi era poco fascinoso ed estremamente riservato. Ebbe nella sua vita dei contatti con donne fugaci, proprio perché in questo modo non gli ponevano problemi. Quando parlo di donne fugaci intendo dire ovviamente prostitute, ma si avvalse dei favori, per così dire, anche della governante della nipotina Caroline, che stava in casa, un inglese. Non voleva parlare di queste donne fugaci, usiamo questa espressione, donne fugaci e prezzolate. Ebbe certamente una sessualità profonda, come dirà tra poco in una lettera che vedremo, viscerale, rabbiosa, che gli concesse anche delle escursioni, per esempio quando si trovò in Medio Oriente, in un campo che non era suo, cioè il campo dell'omosessualità, insomma, ma sono cose assai brevi, ovviamente poco indicative, ed ebbe due donne fondamentali nella sua vita. La prima donna la incontrò quando aveva 15 anni, quindi, come potete capire, è una donna di 15 anni e non può, prima lei ha avuto una sigaretta in bocca o qualcosa di simile, non è possibile fumare? No. Ecco. Sì, lo so. Allora, no, l'avevo solamente levato. A 15 anni conobbe una che ne aveva 26. Secondo voi una ragazza di 26 anni può prestare fede e attenzione a un ragazzo di 15? È molto, molto difficile. Insomma. Infatti Costei non prestò a lui la benché minima attenzione. Lui la prestò a lei. La incontrò al mare, a un posto di mare famoso per quei tempi. Allora c'erano vacanze al mare, quindi al mare ci andavano in pochi, i ricchi, che era Trouville in Normandia, e lì incontrò una signora che veniva in senso opposto sulla spiaggia e che aveva un seno scoperto perché stava allattando il bambino. L'immagine è, oltre che erotica, perché evidentemente era esposto una zona erotica del corpo femminile, era un'immagine materna, o forse starei per dire prevalentemente materna. Il turbamento di sensi che ebbe Flaubert fu grandissimo. Cercò di sapere, capire chi era questa bella ragazza bruna che veniva verso di lui. Costei si chiamava Elizabeth Schlesinger, un nome Schlesinger, ed era la moglie di un editore di musica. Moglie? Di un editore di musica. Questo personaggio è stato cruciale nella vita di Flaubert. E attenzione, cercate di capire il perché. Lui ha tentato di accostarla, lei lo ha trattato come un ragazzo, 11 anni di differenza. La donna più grande di 11 anni. Poi lui è cresciuto, lei è cresciuta, ma un punto d'incontro in realtà non lo si è mai trovato. Non che lui abbia smesso completamente di frequentarla, lui la frequentava, ma soprattutto la frequentava con la testa. Divenne l'immagine di una donna di totale fascino e totale bellezza. Aggiungete che poi, quando un essere umano nei nostri incontri tace, non parla, a volte si rende ancora più seducente, perché noi immaginiamo tutto quello che potrebbe dire e non dice. Per questo ragazzo, questa donna silenziosa, matura, con tutte le grazie splendenti della propria femminilità, sposata e palesemente inaccessibile, forse per questa sua inaccessibilità divenne una sorta di idolo. Come vi dirò con un po', l'idolo, ovvero Dio, con la D minuscola, l'idolo, ovvero Dio, ha sempre bisogno di una sua inaccessibilità. Ne abbiamo parlato in molte altre occasioni, forse con voi che siete nel primo anno non è accaduto, ma Dio non è accessibile. Se Dio si facesse accessibile, perderebbe il suo interesse, il suo fascino. In fondo il trucco, se così posso dire, parlandone laicamente, il trucco di Dio è che ha detto che una volta, parlo del Dio cristiano, è venuto sulla terra e poi non ha più visto nessuno. Non è tornato dopo nemmeno una volta sulla terra. Nessuno di noi ha mai visto Dio in faccia. Ma questa inaccessibilità, lungi dal rendere Dio meno appetibile, l'ha reso più appetibile, perché è proprio quello che sta lontano, che è inaccessibile, che viene da desiderare. È la sua lontananza che consente di dire in piena buona fede al credente che Dio è onnipotente, può fare quello che vuole, onnisciente, sa tutto, immenso. Intanto non c'è una controprova naturalmente del fatto che questo sia o non sia vero. Il discorso è profondo e i ragazzi intelligenti come voi non possono non farlo. Questo fatto avviene anche nei rapporti sentimentali, no? Nel rapporto sentimentale una persona diventa tanto più limite carismatica agli occhi del compagno, della compagna, quanto più si renda inaccessibile. L'accessibilità assoluta, capite? Lei prende appunti. La frequentazione del letto ha dei vantaggi dal punto di vista del calore e dell'intimità che ne vengono, ma anche dei potenti svantaggi, perché la persona perde questo alone di santità, di fascino, che ha invece nella distanza. Le star, come si suol dire nel mondo della musica, quelli che alla vostra età forse sono più vicini ai vostri interessi, o dello schermo, stanno molto attenti a darsi con il contagocce in certe occasioni. Ecco, non vengono al bar con voi, oppure lo fanno in una orchestrata campagna pubblicitaria, ma certamente più l'idolo si degrada andando incontro ai suoi fan, più l'idolo si degrada, più perde. I santoni delle sette americane, i vice Dio per così dire, quelli che dirigono dei movimenti religiosi con grandi risvolti, per esempio, come sapete, negli Stati Uniti, anche di carattere politico, no? Sono santoni che guidano l'anima di centinaia di migliaia di persone, ma facendosi vedere pochissimo. Il capo si fa vedere pochissimo. Riflettete su questi concetti, no? Un professore, mi vengono in mente le più strane paragoni, assolutamente tutti adeguati. Un professore è tanto più prestigioso se ha degli allievi, degli assistenti, delle figure mediatrici, degli angeli che possono rispondere al posto suo. Chi non ha servi, tra virgolette, chi non ha persone al suo servizio ha poco potere, no? Il Papa è molto potente. Provate a chiedere questa mattina un appuntamento telefonico al Papa, anche per 5 minuti al Vaticano, dicendo: io sono, dite il vostro nome, vorrei parlare con Sua Santità Benedetto XVI. E sentite il tipo di risposta che avrete. Ma mettiamo che la stessa cosa voleste farla con un economista che adesso è in un posto di grandissimo potere, che è Mario Monti. Dice: vorrei parlare con il professor Mario Monti, però per favore non ho molto tempo da pagare perché mi mancano pochi soldi nel telefonino, quindi vorrei avere un appuntamento con lui al massimo entro 5-10 minuti. La vostra convinzione qual è? Che parlerete con Monti, no? Se insistete vi chiamano, vi mandano al 118 o qualcosa del genere, probabilmente, no? Ecco. Allora, il concetto è questo, che Dio tende a nascondersi, l'idolo tende a sfuggire, Quindi, per rendersi più gradevoli, attraenti all'oggetto d'amore, non bisogna che l'oggetto d'amore ti metta le sue deliziose zampe sopra completamente. Ecco, usando una cosa invece da mettere a capo del letto, delle mie solite espressioni, mettere a capo del letto, a proposito del rapporto sentimentale, potete scrivere questa frase, mia e G. Una zampa sì, virgola, due no. Questa frase vi riassume il guardo pensiero. Una zappa sì, due no. Questo discorso, che potremmo chiamare quindi il discorso della zampa, lo potremmo anche segnare come il discorso della zampa, torna particolarmente appropriato per quanto riguarda Elisa Schlesinger. Se Elisa Schlesinger avesse detto al giovane Flaubert, gli avesse detto: ma sì, sono 11 anni di distanza, ma mio marito in fondo è uno scocciatore, tu sei così bello, intelligente, eccetera, perché lui poteva dire: ma ci sono 11 anni, ma no, ma siamo belli, giovani tutti e due, eccetera, non v'è alcun dubbio che sarebbe stata come me. Ma lei, come diciamo noi a Roma, non se lo filava di pezza. Questo è il punto sostanziale. E questa fu la grande gloria di lui. La grande gloria di lui. Nel momento in cui una volta le nonne spiegavano alle figlie, il problema, sapete, poi trivialmente e duramente era quello, gliela do, non gliela do, è tutto un problema che attraversa la storia sostanzialmente, le nonne che sapevano dove andava la vita, dice: guarda, nel momento in cui questo avviene hai meno crediti nei suoi confronti. È assolutamente vero, è assolutamente vero. Ma in questo modo lui, con questo discorso della zampa non data, per così dire, poté farsi un mito di Elisa Schlesinger. Bruna, vi ho detto, Bruna, sposata, quindi un cetro per lui irraggiungibile, lui giovanotto non sposato, adorna di tutte le virtù che si possono aspettare da una donna che vuoi amare. Ma naturalmente, se poi un demiurgo gli avesse detto: va bene, tu puoi stare con Elisa Schlesinger tutti i giorni, alzandoti al mattino quando ha le Madonne, occupandoti nella cucina, vivendo, resisti o non resisti? Lui non avrebbe resistito. Ma la sua storia è emblematica. L'amore è un fatto mitico, quindi esiste finché non viene messo alla prova della realtà. Di questo, discorso sto facendo naturalmente ampiamente. A 25 anni, quindi un'età assolutamente invece ragguardevole dal punto di vista delle possibilità che poteva avere con le donne, incontrò un'altra donna decisiva, Louise Colin. Anche Louise Colet aveva parecchi anni più di lui. vecchi anni di lui. Era molto diversa da lui, nel senso che era una intellettuale, una cosiddetta bableu. Bableu vuol dire calze blu. Allora, gli intellettuali nell'Ottocento in Francia, per residui della Rivoluzione francese, si diceva che indossassero le calze blu, no? Era una rompiscatole notevolissima, donna arrivista, donna spregiudicata, pronta a tutto pur di affermarsi nella sua carriera di scrittrice. Che scrittrice era? Non tale da poter dare ombra a Flaubert. Cioè era un nulla sostanzialmente, poteva raffigurarsi a, non so, queste ragazzotte contemporanee, non so, il primo nome viene in mente, questa, non so, Valeria Farrella, queste robette qui, queste robette che io mi dissuado dall'andare in libreria anche per vedere i titoli di questi libri. Ricordate bene questo fatto: piuttosto che cedere alla tentazione di andare in libreria, andate a un distributore di benzina, state fermi sotto la pompa del distributore per un'ora finché non vi passa l'olio, poi tornate a casa per le vostre cose. Luis Collier era la moglie di Collier. Questo Collier era un professore di musica al conservatorio. La Collier veniva dal sud. Le donne del sud sono abbastanza diverse dalle parigine, sono persone più calde, così il sud si dice, poi sono miti anche questi, insomma. E si era trasferita a Parigi, armi e bagagli, per stare con quest'uomo che poteva spianarle una carriera, no? Sarebbe come se lei a un certo momento trova un Luis Collier che le promette una carriera, che ti prova di venire a Parigi, e quindi lei abbandona tutto per andare a Parigi. Luis Collier, stando in questi bassi discorsi di cucina, ma dobbiamo farli, d'altra parte, prima di parlare di cose più aulee che altre, Luis Collier amava Collier? No, assolutamente, era un matrimonio di mera convenienza. Lei era una buona, lui era un nometto, sostanzialmente gli andava bene a tutti e due, ma è evidente che la possibilità di essere tradito da parte del collega era molto alta, e si verificò, perché cercando in un orizzonte più ampio la bovaristica Luis Collier si fece un amante, e non un amante che fosse un netturbino, perché non vale la pena farsi come amante un netturbino se tu hai già come marito un professore di musica al conservatorio, ma niente po' di meno che un accademico di Francia, un filosofo. Quindi vedete che saliva nel centro sociale. Si chiamava Victor Cousin. Cousin. Da Victor Cousin ebbe una figlia, una bambina, ma siccome naturalmente la cosa, l'adulterio, non poteva essere reso pubblico, lei attribuì ufficialmente la bambina al povero Collier. Però con Cousin le cose andarono abbastanza presto male. Luis Collier era una donna vogliosa, era una donna agitata, inquieta, vogliosa, bella, che credeva di dover avere omaggi dalla vita in rapporto direttamente proporzionale con la sua bellezza e il suo fascino, per cui si distolse da Victor Cousin, il quale le scrisse delle lettere dignitosissime, dicendo: io ormai so che genere di persona voi siate, cercate di non mettermi in imbarazzo, io scompaio ma non mi nominate, non fate sì che mi penta di aver ceduto alle vostre grazie. Lei ci stette e cominciò a tramare una nuova storia con Gustave Flaubert. Gustave Flaubert si erano incontrati due in un ambiente artistico parigino da uno scultore. Gustave Flaubert era quel che si suodice, un buon partito, buonissimo partito, figlio di un medico ricchissimo, erano due figli, l'altro lavorava, ma insomma i soldi non mancavano. Un uomo di sicura intelligenza, scriveva in modo straordinario, la quale pensò di trovare vicino a lui chi lo aiutasse non solo a entrare nel mondo delle lettere dove lei voleva entrare, ma anche la aiutasse nella sua funzione come di pigmaglione, insomma, no? Le togliesse le rozzezze che aveva ancora di dosso e la rendesse una grande scrittrice. Questa è la ragione per cui si stabilisce fra i due, fra Flaubert e Louis Collet, una delle più interessanti corrispondenze, forse la più bella che mai si sia avuta nella storia della letteratura. Un gioiello. Quando parlo di gioiello intendo naturalmente le lettere di Flaubert. Le lettere della Collet non pensiamo che fossero niente di più. Comunque non ne possiamo avere traccia, perché la nipotina di Flaubert, la figlia della sorella, vi ho detto che era andata a quel matrimonio della sorella, la figlia che nacque e per cui Flaubert ebbe ogni sorta di amore e spirito protettivo, era una vipera, una bigotta, e l'idea che lo zio celeberrimo avesse avuto con una troietta, come la definiva, una così lunga relazione, le faceva schifo. Quindi bruciò tutte le lettere della Collet. Per fortuna non bruciò le lettere dello zio, che sono un capolavoro di bellezza. Queste lettere sono molto importanti nel nostro discorso. Ho pensato di affidare a un mio assistente, ex allievo, dottore di ricerca, che forse qualcuno di voi conosce, dottor Catoni, la lettura, insomma, di intelligenza estrema, oltre che di cultura estrema, di affidare il commento durante questo corso di quattro lettere di Flaubert, per farvi capire qual era il mondo di Flaubert. Questo naturalmente vi sarà detto al momento opportuno. Avevo pensato proprio a quattro lettere. La relazione fra i due scoppiò, poi si ristabilì, durò alcuni anni, rimase alla fine un senso di rancore. Diceva Pavese che tutte le relazioni finiscono male, perché Pavese Cesare, qualcuno conoscerà il nome dello scrittore, conoscete il nome di Cesare Pavese? Diceva lui, tutte le relazioni finiscono male, perché se fossero andate bene non sarebbero finite. Un giorno per Parigi camminava Louis Collet con questa ragazzina, la bimba diventata ragazzina, e c'era un omone che passeggiava e lei, piena di odio, di rancore, diceva alla figlia: vedi quell'omone senza capelli e quasi senza denti, lo vedi? Quello è il più grande scrittore francese, è Gustave Flaubert. Allora la bambina gli chiese: ma mamma, tu l'hai conosciuto? E lei disse: sì, l'ho conosciuto molto bene. Ma mamma, allora vai a salutarlo. No, non è il caso che vada a salutarlo. Le due donne ebbero una funzione per Flaubert assolutamente diversa, cioè una era inaccessibile, l'altra, la Collet, era accessibilissima. cosiddette strutture che il sesso può suggerire vennero effettuate gaudiosamente e gloriosamente dai due. E Flaubert ciò non di meno non riuscì a legarsi molto a costei, proprio perché sentiva due cose: sentiva la disparità intellettuale, formidabile naturalmente, e poi sentiva una cosa che lui non sopportava, che in genere nessun uomo sopporta. Per catturare un uomo, ieri come oggi, bisogna non dargli l'idea, come insegnavano le nonne alle figliuole, alle nipotine, di metterlo in prigione. Il maschio teme l'oppressione. Il maschio teme l'oppressione come più di qualunque altra cosa. Vale naturalmente il discorso anche in senso opposto, ma molto molto di meno. Cioè, se una donna ama, desidera anche avere un atteggiamento, come dire, caldamente protettivo da parte dell'uomo. Non vale il contrario. Un uomo può amare molto, ma bisogna lasciarlo stare. Uno degli interdetti che erano stati emanati da Flaubert riguardava casa sua, la casa di Croisset. Aveva detto: in questa casa io abito con la mia nipotina e con mia madre, e lei si suppone che abbia cominciato a dire: ma non sarebbe il caso che abitassi per conto suo? E poi i discorsi sulle coppie sono sempre gli stessi, insomma. La casa di Flaubert non era un appartamento per Bella Monaca, questo è il punto. La casa di Flaubert era un castello, era un castello sulla Seine, castello con uno studio meraviglioso dove lui lavorava in vestaglia, a un tavolo quadrato che stava in mezzo alla stanza, con quattro finestre che davano sul giardino e sulla Senna, e da queste finestre lo si vedeva affacciare durante la notte, perché aveva orari un pochino stravaganti, facendo la gueulade, come la chiamava. La conoscete? Sì. Quando l'ho spiegata? Primo anno. Cioè, gridando, cosa faceva in quel corso? Flaubert. Ma che cos'era? L'educazione sentimentale. Gridando ad alta voce le frasi, perché in quel modo si poteva sentire come suonava. Disse alla madre, disse a Louise: tu mia madre non la devi vedere. E perché? Dice lei, cosa c'è da vergognarsi di me? No, ma quella è casa mia, non voglio che tu c'entri. Naturalmente Luis Colè era abituata a scavalcare ogni genere di ostacoli, e il suo scopo era quello di farsi sposare da Flaubert, per cui fece un giorno una bella improvvisata e si presentò alla casa di Flaubert. Flaubert le fece una sfuriata epica, spaventosa, e dopo i rapporti fra i due si era entrato in questo sacrario che era casa sua, aveva violato delle porte che per lei gli erano chiuse, e quindi Flaubert l'ha espulsa dalla sua vita. Noi ci possiamo chiedere, ci dovremmo chiedere, come mai ci fu una corrispondenza così straordinaria tra la Colette e Flaubert, se non la riteneva un'interlocutrice intellettuale degna di nome. Perché raccontare le cose meravigliose del suo cervello, del suo stile, della sua scrittura? Ma il motivo è abbastanza semplice: perché in realtà Flaubert parla a se stesso, lei è semplicemente un pretesto a cui rivolgersi, è una sorta di sparring partner, è un interlocutore che le serve da spalla. non le interessa sapere l'opinione che può avere su questo o quell'altro problema di poetica, Luis. Gli interessa semplicemente che ci sia qualcuno per ascoltare le cose belle che ha. Ora, voi capite che avrebbe potuto benissimo scegliere un amico per dire le sue cose belle, ma qui è un punto che dovreste capire bene: l'effusione della propria vita intellettuale non richiede necessariamente lo scambio, la risposta, la persona che magari ti dice no, su questo punto sbaglio. Lui aveva accettato, avendo certi amici naturalmente, che gli potessero dire su certe cose sbagli. Ma quando uno pensa, ha bisogno in qualche modo di uno specchio, ha bisogno di un qualcuno che lo stia a sentire. Questo qualcuno non è di necessità una persona mediocre, è una persona che ha ascolto, e indubbiamente Luis Collin aveva ascolto. Flaubert aveva bisogno di essere sentito, di essere ascoltato. Questa è una ragione. Un'altra ragione del loro rapporto era il fatto strettamente sessuale. Come dice in una sua lettera che fra poco vedremo, lui è stato, Flaubert, un grande masturbatore nella testa. Ha conquistato, ha sedotto un numero strepitoso di donne, ma nella testa. Poi c'erano le donne prezzolate, ma che non contavano. Aveva bisogno di giungere a una sorta di equilibrio, perché una cosa è il coito nella testa e una cosa è il coito effettuato nella realtà. Luis Collin glielo consentiva. Divenne un'amica dopo che la relazione fu interrotta. Secondo il grande scrittore Zola, Émile Zola, Flaubert ebbe dei rapporti con le donne prevalentemente di amicizia, però non aveva ragione. Cercò invece di avere dei rapporti in cui qualcosa del rapporto maschio-femmina venisse fuori. Sartre ha detto su Flaubert una cosa molto illuminante. Flaubert aveva una natura femminea. Questo ci aiuterebbe a capire perché si è riuscito a entrare nella psicologia della donna come mai nessuno era entrato. Ha parlato della donna come solo una donna poteva parlare. C'è un numero strepitoso di scrittori uomini che hanno parlato della donna, ma dal punto di vista maschile. Tolstoi non aveva nulla di femminile, ha parlato di Anna Karenina dal punto di vista maschile. Flaubert ha parlato delle donne da un punto di vista femminile. Essendo una donna, stando a questa ipotesi di Sartre nella sua psicologia, si capisce che avesse difficoltà a stare con una donna in un senso sessuale, perché stava con una persona che conosceva troppo bene, con cui era troppo in familiarità. Certamente, messo alle strette del dover scegliere una donna, nonostante le occasioni fossero molte, rifiutò. Non poteva stare con qualcuno simile a lui. È stato attribuito a Flaubert una frase famosissima che Flaubert non ha mai detto e che tutti voi conoscete: Madame Bovary, c'est moi. Flaubert non l'ha mai detta, ma come accade spesso, frasi non dette, frasi che non hanno una loro storicità, una loro attendibilità e che quindi hanno solo il colore della leggenda, come molte leggende, possono toccare dei punti, dei nuclei, di verità, più che dei frammenti storicamente, filologicamente attendibili. Quando dice Madame Bovary, c'est moi, quando avrebbe detto, perché non l'ha mai detto, si intende proprio questo: io sono il mio personaggio femminile. Quindi io sto descrivendo il problema di una donna dall'interno della sua psicologia.